facciamo guarda, non posso neanche fare piazza della matta ma qua su Walter, perché c'è un casino questo pezzo di condominio. E quindi non è di come trovare quello. Anzi, mi ha regalato a Fabio per sbaglio questa antenna, il centro è usa, guarda se ti va bene. Diciamo quella 4 ore non uscivamo un cazzo. Avevo questa qui, ho guardato questa, ho cominciato pure a me a salire. Io dico, ah, tabù, strano. Allora ho cominciato a fare le prove. Questo già rende bene. Uno mi ha inteso ai TV tu ieri sera. Voglio dire, io non ti sentivo per niente. Vuol dire radia bene. Gli ho messo un radiale per fare scendere poi la prestazione, che diceva 1,6. Con radiale ne ha 1,3, 1,4. No, già stai andando bene. Vorrei che se sono al telefono, riprendo dopo. Ciao Saverio. Ciao Gianni, ciao Falchetto e salutate Gianfranco. Ciao Walter, a dopo se coincide. Te lo saluto. Gianfranco, saluta Walter. Stiamo se ne conterai. No, Walter Diabolic, a più tardi se coincide. Ti fa sentire, eh? Ci siamo. So poi. Ma Gianni non più rumore. Sempre qua, sono, vai. Salve. Andare. Ebbene, qualcosa dice. io ho staccato la mantova dal tetto e ho piazzato una forchetta vecchia che avevo qui a casa. E come sto arrivando lì? Ma qua è il tuo marcocchiere. Segnale 9-10, attenuato di 20 dB. Praticamente si affonda scala aperto, K. K di positivo. E tu Gianni dove sei, in BM? Io sono a Ponte Nuovo. Mi sto dirigendo alla mia suocera per il Marcolino. Cavacava, dai, vai tranquillo, non ci sta problema. Hola. 1-2-3. 1-2-3. Allora Giuse, questa porchetta va bene? Cosa sembra, Panchetto, la porchettina del buon Giuseppe? Aspetta, quasi quasi a fondo scala, K di positivo, ho preso la più vecchia che c'era nel cassetto, Panchetto. Sono le migliori quelle. K, con quella mangiavo il dessert. Ah, gava gava. E con quella si faceva, su che andiamo? No, su che andiamo? Ebbene sì, avanti l'amico Bombonio se sei ancora sul 10, cascava. Torello. Mi stai facendo? Mi sto prendendo un auri, che sto crepando di mal di petto. Controllo a Giuseppe, fai il controllo avanti Giuseppe che ti fa il controllino Bombonio. Vabbè, mi senti? Via, 9.50 alla 5. Esagerato, 9.50. Beh, chi ha avuto segna così? Cosa vi posso fare? Aspetta a te, non è? Fa passaggio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, io non credo, portavo 10 al tonetto. 9.30. Cava, cava, dai, vuol dire che sta andando bene la forchettina, dai, dai. Su che si rulla, fai che sto, facci sognare. Gappa, io vi faccio sognare, sei una schioppettata da me, sei una schioppettata, se me ne stai parlando vicino a me. Oh, avete sentito le fucilate di propagazione che stanno entrando? E stasera mi sono collegato con il Portogallo, Gappa Gappa, saluti a tutti, con la porchetta. Cappa di positivo, e gli amici dice che stavano facendo queste opere, però hanno avuto la bontà di dedicarmi proprio un paio di minuti per salutare tutta l'Italia. Cappa, contro cambiate saluti allora. A che ora? Sì, guarda, saranno state le 7:15, 7:10. Su che canale? Allora, ero sul 22. Appaga positivo. Ci sono ancora. Ma ancora? Però poi mi hanno detto che non potevo gentilmente questo. Si è anche scusato, mi ha chiesto se gentilmente non potevo più entrare perché stavano facendo un questio di una certa importanza. E niente, poi sono andato sul 40 nella banda superiore e c'era amica, Gappa, me l'hai salutata? Ho cercato un paio di volte di entrare, però ne capisco lì, ti direi una bugia se ti dico che sono riuscito a beccare il collegamento. Va bene, dai, va bene, sono contento, hai visto quella vecchia porchetta, quante cose fa, Gappa di positivo, Panchetto. Positivo, positivo. Portate lucidarla ogni tanto, la porchetta, se no si piglia la ruggine. Sì, quelle poco assicuro. Avanti, anima lunga, tutto per te il mai. Gappa di positivo, dai. Siamo qua, le stiamo facendo un po' di ascolto, la paura. Oh, Giuseppe. Avanti, Panchetto. Ti volevo chiedere, quei disturbi li senti con quella forchetta? Cappa se li sento, ieri non sono potuto entrare perché era fortissimo. E adesso che l'hai nominato mi sa che ha cominciato a iniziare. Aspetta un attimo. Eccolo, è lui. Camisilia, porca miseria, gatta, non si sa da cosa, da dove proviene questa merda qua, E tra un pochino Giuseppe è costretto a chiudere le trasmissioni perché adesso va pian piano aumentando, aumentando e poi mi fa sordo. Va bene. Mi dispiace, dai. Ma a me quel disturbo non mi passa, Giuseppe. Lo li passo sopra, capo, capo. Scappa, lo passi. E lo passi alla grande, però io qua quando lascio la portante da me, sono delle fucilate a testa che mi arrivano, perché è un rumore che vuole solo accolato per capire come. Mi metti lo squelch, per fighi. Lo so, per quanto lo posso mettere, tanto ce l'ho sempre. Voi lo sento, eppure sono a 200 metri da casa tua. Tutto gonfio. Per te, lascio la birretta. Natalino sta uscendo. Natalino sta di FM. Eia! Natalino FM, FM. Natalino, Alfa 1, Alfa 1. Alfa Box. Eccoci, siamo di nuovo qui. Natalino FM. Natalino. Chietto. Dimmi Giuseppe. Devi chiamare Natalino, devi chiamare carissimo! Carissimo! Carissimo! Carissimo Porchetto! Hai visto che l'abbiamo recuperato, mannaggia! Carissimo! Carissimi! Carissimo Natalino! Tu che si rulla forte questa sera, signori. Natali. Bobo, a me non mi sente nessuno. Natali. Oi. Vengo la commissione fatta. Negativo, non ci è fatto vedere, me ne sono stavano nel ring. No, perché poi è entrato il figlio e ho detto, ma ci sono trovati con tuo padre? Sì, che ci sono trovati. Mi ha detto, forse sì, buh. Ma che cacchio. Evidentemente non l'ha mandato fuori, quello là e non è potuto venire. Vagava, guarda che c'è già le doppio due, avanti. Fanni! Sì, vabbè, mi avete sentito, sì. Certo che ti abbiamo sentito, carissimo. Vagava, pensavo di non uscire, trovare Gesù Cristo, boh, non mi intendo. Carissimo Natalino. Oh, sono meglio, carissimo. Ciao Natalino, buonasera. L'ombra di mezzo albero. Da cuocuomo, Ah, è un caiello cuocuomo, Quale sei tu? E allora già dove sei arrivato? Sono una cosa nuova vicino a casa. Ah, che positivo, già va bene. Ciao Lucariello. Carissimo Lucariello. Allora, sto qua, cavacava. Com'è l'FM? Rilanciarlo se ha ripreso a modulare Gianfranco. Attento Gianfranco. Negativo, riprendetemela. E io ti dai, me la. Va. Io ci sono, capo. Sì. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio. No, meglio in AM. Perché? Perché qua molto masina. Addirittura cava. Allora in AM via. Come sta uscendo Mario con questo maranino? Non vedi già quello. sempre. Cosa dice? Vabbè, sei già amplificato e la radio è chiara. infatti chi scrive palmare non mi piace come microfono. Continuate per un attimino e cambio l'altro baracchino. Come ti arrivo a quelle cose? grande, Falchetto. Come ti arrivo lì a Carceghe? La radio mi interessa come? Positivo. Avanti compagnia di Giuseppe Tornado, Domenico, Anima Lunga, avanti perché vuoi. Io sono quello è un bel forte. Chi è che sta parlando? Aspetta, avanti chi chiama? È Giuseppe da Pro da Proaglio, mi sembra. Da Proaglio, ci metti tu Carceghe tu. Ma Carceghe voglio dire Carceghe. Avanti Giuseppe, si occupi questa stazione, avanti. Giuseppe. Sì, tu. Ah, voglio dire, Cristian, senti un po' se riesci a copiare a Roberto Quadrato, avanti Roberto Quadrato. Sì, lo sento, non so se sia lui, lo sento in mezzo a QRM, attenzione Cristian, se mi copi, avanti. Dentro che ti copia. Ma lui, perché sento un paio di persone parlare contemporaneamente, col bip, quello col bip è lui, Cristian. Perché Cristian il bip, cioè, perché sento due persone parlare, ma con qualche altro sta parlando? Cristian. Quello col bip non è lui, Boh, no, non lo so, io sento qualcuno parlare, però non riesco a capire quello che sta dicendo, ma sei sicuro che è a Carceghe? È impossibile, c'è a, cosa, l'ascolta a bomba, a Capri, che è a Muro, c'è su Vitrini, arriva a 9, 9, 10, e lui, e mette, vabbè, c'ho ancora il MA6, qua, con questo barattino, l'altro era 8, figurati, vabbè, tu l'ascolti perfettamente, Franchi. Insomma, un po' allontanato, Cristian, scusa un attimo, da dove stai modulando? C'era un altro che sta... Sì. Ha confermato che Cristian da Carceghe? Però si è detto la macchina con qualche antenino, è possibile arrivare così in basso da Carceghe? Questo che ha parlato adesso comunque è Domenico, tu sei dove? Chi sei? Gianfranco che sta nella Sirigo, eh. Ah, Gianfranco già l'ascolto, ma questo è un altro ancora, quello che sentivo prima allora. Come mi ascolti a me Gianfranco? Santiago 8, però cioè, il QRM è molto alto oggi, e tipo si è preso, non c'è la radio 5, non te la do, ti do 4 come radio. Gianfranco, Gianfranco, dove sei arrivato? Ma ci sei arrivato a Sirigo? Gianfranco, Franco, sei arrivato a Gutiérrez a Sirigo? Se mi copi quelle coordinate. Positivo, Falchetto, sono avanti, arriva a Bugatti. Ti stavo chiedendo Gianfranco se era già arrivato dentro Sirigo, ma ancora ci mancavano molti KM. Positivo, là, io quando ascolto un segnale di 3, oscillante, la radio è 3, è sempre, dai. Non so se come stai tirando fuori tu in quelle coordinate. Avanti Gianfranco. Capa che ti sento. Ascolta, ma sei in BM tu, per caso? Da casa? Antenna c'ha. Che antenna c'hai? Te l'hai? Antenna molto complessa. Devo malissimo anche qua. Kappa, kappa. Senti, l'amico, che antenna hai? Sirigo già arrivava bene, ma Non mi dico, per essere dove ha detto lui, arrivava molto, ma molto più forte degli altri giorni. Non lo so cosa sia successo. Sì, avanti, ma sveglia. Ehi, ho una scena, che c'è rotta ancora, Robè? C'è Falchetto, Salvirio, Natalia è andata adesso, Domenico, c'è la Giuseppe, io direi arrivarci la Giuseppe perché sono da un po' che non lo sento. Se c'è ancora, avanti Giuseppe. Giuseppe? Avanti Natalino allora, per Massimiliano. C'è anche Massimiliano, lo sapevo, c'è Massimiliano, ma se. Io c'ero poco fa, ho fatto un attimino di bianco, però stiamo facendo una commissioncina. Ciao Natalino, per sentito. Cos'è? Tempo di propagazione? Ieri notte ho acceso un attimino, c'era un pugno, l'America c'era collegata ieri, poi era un iraniano, mi pare si chiama Natalino, dimmi Natalino. Ma ieri sera stavo parlando con Tenerife, del Canaria. Adesso ma quello diciamo, anche di quello abbiamo fatto, ma l'America non l'avevo mai collegata in corso, in AM. Poi mi era detto, va bene, insomma non si butti, ma no, all'asse, Natalino dice dall'Iran, no? Parlano mezzo inglese, ha detto, chi tu è Natalino? A mezzo, no, mezzo inglese, e fa una cosa, ti vuota a Turca, come ti becco, cazzo, ti frego, Natalino, detto, non mi provocare, se no ti faccio parlare con l'isola di Pasqua, non mi credi, tu sei come ti fai con l'isola di Pasqua, sei in Piazza dei Segni. Devi fare un sì. Io dico che ti prego. Mi chiedi Natalino che un giorno se capita te lo faccio, lo scherzo e tu a me non mi riesci a capire. Vai, che sono vecchio di queste cose, vabbè, carta. Non lo faccio perché non lo faccio, ma agli amici qualche volta, però io lo dico subito che sono io. Dopo che ti ho fregato ti dico mica sono io che ti stavo fregando. Ma hai visto che ho abbassato la radio a zero, si può dire i vatti pure. E quasi quasi si gira, ma mi capivi. Ha visto che mi metto puttendo, ha detto mi pari arabo, visto, va bene. Poi ha detto, naturalmente la chita è Natalino, ho visto il segnale basso, ho detto, ma comunque è lui, e poi tu hai confermato. Comunque c'è qualcuno, ho sentito la risatina, chi è avanti? Chi vuoi che sia, buonasera a tutti, doppio rumo. Ah, ciao già, mi hai sentito. Compagnia mia, Natalino, Massimiliano, Falchetto, Domenico a lunga distanza, Saverio e poi siamo per chi vuoi, dai, riprendi, facciamo riprendere Domenico che fosse il pilota. Avanti Domenico se ci sei. Ma ciao Domenico, ben sentito, dai. Buon voyage. Ciao no, Gianni, cosa ne dici che se voglio pregare Roberto, lo prego? Devi modificare la voce con qualche cosa, sennò non lo riesci, c'è la voce inconfondibile la tua. Devi metterti qualche giocattolino per modificare la voce, se no non mi butti. Vai, che se mi mandate a parlare in inglese, ma le tue sono. Guardate che non metti tipo ecco e cose del genere, lì mi puoi fregare, perché la voce tua te la posso doppiare, però se parli senza nessun effetto difficilmente mi butti in attacco. Poi, se mi freghi vuol dire che hai fottito, ti fanno i complimenti. Ciao, doppio rumo, buonasera, qua non ti fanno neanche salutare. Buonasera, Massimiliano, non ti ho sentito, ma me l'ho acceso adesso. Marco, sentito ti avvento. Allora, come va? Come va? Non lo richiamo, 10 ore al giorno è tutto roggio. Adesso Falchetto sabato mattina mi accompagna a Iglesias col baracchino. Iglesias? Perché l'arrivi là? Era quella bellissima, sabato mattina a fare la visita. Ma ci sei andato? Io pensavo dovessi andare il giorno delle rene. No, sabato alle 7:30 al mattino dovevo essere lì, quindi partirò alle 5. Vabbè, comunque già cominciato. Sì, già tutto a posto. Quella gente lasciamo da parte, non dava nessuno. Cosa? Quell'affare non dava nessuno, lasciamo da parte. Bisogna chiedere per loro, proprio, perché me l'aveva che sta prima a lui, adesso che mi ricordo, non voglio problemi. Di Pierpaolo, mi sa che te l'avevo chiesto perché io ce l'ho il suo. No, so, vabbè, vediamo, dai. 80 lo sto dando. Ascolto come tifa, facciamo. No, non me lo di 80 non lo do. Sì, lo voglio provare prima però, perché 60 non lo prendo. Vabbè. Io mi cerco un parcheggio qua, riprendete voi, dai. Ci sono tanto per il salutone, basta. Buona serata, buona continuazione, buon lode, correti. Gappa, c'è un salutone, buon lode, te guerra. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano, avanti Gianni. Gappa. Ciao Massimiliano, dai. Sentito. Stracco sei. Dove già chiuso, là. Ok, avanti, da lì. Via. Oggi sono andato vicino a vedere i due pali qua, cazzo, dovrebbe essere il Mario, era impegnato, non ci è venuto l'appuntamento, se no mi riportavo a lui su. Cazzo lo sai, un autobus 5 non è a quello là, mi prendo un autobus 1. Se tira uno va bene lo stesso. Quale che era? Quello là, quello tic. No, è la vita, fuori produzione, dice la 5. Produzione, no. Dovrebbe essere più la 1 che non sta qui. Vuol dire che è meglio la 1. A me la 1 veramente mi ha dato molte soddisfazioni quando ero in via Pietro Micca, Carai, c'è ordinato. Ah, un negativo, se non c'ho i pali, prima me ne devo verniciare, devo bucare per fare i muri passanti, viene a ricordarla, e dopo me la ordinerei giù, quando vado giù in Tumbrotto, me la ordino tanto in 3 giorni, è qua, volevo comprare le corde per fare i tiranti, tutte le cose, capito? Tu vuoi darti l'antenna, una volta che c'è l'antenna la metti da parte, ti fai questi lavori e poi c'è l'antenna pronta a piazzare, no? Invece lui deve aspettare l'antenna. Poi ti dico, mentre sto facendo i lavori già me la urbino, non vuoi problemi. Anche il bianco per me. Avanti, Romè. No, ho detto bianco per me, un attimino, riprendo su. Vedi, tu mangia. È quel ricevitore che sei tu non hai più. Però non è io ISO quello che hai tu, è ICOM. Vabbè, ICOM io, ISO. Dirisci. Comunque, VX5, non ce la sbagliare. Cercalo, no, scusami, IAESU VX5, venditori, IAESU VX5, ti dà tutti i venditori che ce l'ha. Sì, vabbè, va, non si fa nulla, già lo parlo domani. Da pagare. Andave. Che è rimasto? Penso sempre non è rientrato. Sì. Chi è che hai detto già? Beppe, non è rientrato. Non l'ho sentito. E domani mattina devo andare là. Se no, già ti ho sentito che lo stavi dicendo. Ma pagarmi. Che visita, analisi. Beh, logico, te le fanno le analisi, no? Alle 7:30 devo lasciare il girare. È chitato, alle 7:30. Quando dico una cosa, mi ero fatto in andando in terra. E tu però, io no. E tu? Io stamattina alle 5 stavo parlando al baracchino. Esatto. Non sto scherzando. Invece, perché sto questo, lo può dire? Ma tu perché soffri di sonno? Io se mi lascio dormire dormo fino alle 10:30. A me per farmi venire sonno ci vuole la camomilla. Ora lì. Siccome camomilla non è uno, non dormo. Ma io ho il primello della sveglia. Ma se non mi dice della sveglia guai. E poi dopo che suona dico beh un altro pochettino ancora. Non ci da voi arrivi in ritardo, tira la cavalli e c'è un padrù. Sì, mi sono proprio dormito, quando è stamattina che me la fa? Alle 7:20 siamo alla sveglia, poi fino alle 7:05 piccolo e c'ho più tempo, là c'ho questo arco del tempo, che è meglio un drumito, to. La cimenti io lo so che fate così. Ma lasciamo che ho fatto in orario lo stesso, e non è che sei arrivato in ritardo, perché poi ho fatto sto veloce, non riesco a operare. Vabbè, ci sei. E allora, buona di musica. Cucciù, cucciù. Alessi è corpo. Sicuro. Ascolta a lui. Alessi ci ha buffato tutta la vita a breve. E magari. Dicevo. E me. Ma Focca si è tratto. Guarda che adesso è 35 gradi quando te l'hai mandato il commesso, quindi sale da radiale, se io la problema sale a 27, se la faccio così c'ho 1,5 tondo tondo. Adesso perché non è in corto? E vabbè, quando sale in corto proverò, non c'è problema per la radiale, c'ho 4 radiali di superregicus, ciò che già vanno bene come misura. Ripeto, prima gli faccio l'inchiodare, se vedo che così c'ha problemi, allora gli faccio l'inclinazione, tanto sono è alluminio pieno. Adesso è rende, cos'è QRM che c'ho con questo apparecchio? Anche con cosa addirittura, con il 2009 c'è il QRM, qui non si può proprio dura, era musto. Forza, se non te ne non rende. Sta lì, e dai grazie, non va a te a chiedere. Che cosa? L'antenna. No, quello lì mi stava a 150 euro, mio. Cosa è rimasta solo? La 1 e la 2 poi? E io. Ah, più bella la 1, dai, della 2. A me la 2 non mi piace. Perché non ti prendi la SuperLM come quella che c'aveva la cosa? Santo Satellite a venire, Santo DC6. Tanto mi pare che è lo stesso pezzo lì. Scusalo, ce le ha quelli. E quelle vendono come antenne, prova a chiedere a Torino quanto te la lascia, non ti importa niente, glielo dici, dici quanto ti fa, se c'è la SuperLM ti piace quella, la conoscenza che è nuova, è anche bella la SuperLM, già lo sai, è stato sempre che usciva forte, la capitava prima, con quell'antenna lì, usciva veramente bene. Quella non è 5 ottavi, però mi sembra che sia 3 ottavi d'onda, è alto 8 metri, mi sembra. Ah, è a 5 ottavi, lo sto dicendo, c'è un catalogo qua, è 5 ottavi la SuperLM. Andrà bene a me, dai, vabbè, ti chiedo, non mi prendo la SuperLM, solo l'ultimo. Beh, anche perché c'è la radiale molto più lunga, ci va tutti l'alluminio, c'è la radiale, lo sai, e quindi c'è ampio spesso. Con quella base radiante a voi è pompa la lì. E poi anche lo stesso peso della mantova normale, diciamo. È bella, c'ha quella bobina esterna, è perfetta, la verità. Dovrebbe rendere molto bene la SuperLM. Io mi ricordo quando l'avevo piazzata, non pensavo che pompava così, Sandro. Usciva forte, non la pitava lui. Poi c'aveva anche cose, la salute interna, già lo sai. Quella di Marcinzo, ho visto che l'altro giorno visto in terra, ha poggiato sopra il tetto, di questo che ha fatto gli ha dato, è spaccato il palo, però il radiale, tutto il resto è tutto intero. Stamattina c'avevo l'appuntamento con Mario per portarmi sui due pali che mi servivano, ma non si è fatto vedere, evidentemente il principale l'ha mandato fuori. E non ce l'ha fatta, capito? Sì, vabbè, al limite lo fai venerdì, cioè domani si può fare anche, non è che domani mattina non c'è niente da fare, ti telefona e ti riporta. Lui lo sa che te può portare dopo l'orario di lavoro, verso le 5 e mezzo lui finisce. Capito? Ma non aveva dato l'appuntamento a mezzogiorno lui. Capito? Ma evidentemente è uscito fuori sassa. Ah, vabbè, è stato il ritardo quella, quindi. Però al limite ti chiamerà domani. Non lo so. Se stavo attento glielo chiedi, magari. Vabbè, non c'è problema, fai isso. Presa non nasce. Tanto quando era piatto, vi dirò se mi avete dato di sì, no, mi piace. La giornata, vabbè, oggi era ventoso, la verità, stamattina. Poi si è calmato il vento, stasera. Domani, fa bel tempo, se domani sei fortunato. Ma non c'è l'antenna per giubilare in culo. Io lo so, e magari che domani mattina tu vieni a superare la raccoglie, perché c'è un catalogo qua. Aspetta, va. 5 ottavi, da 26 a 28, 5.000 watt massimo di potenza, impedenza 50 ohm, guadagno 9 dB, ciao. Stazionare da 1.1 a 1.2, l'antenna lunga 7.40 Natali, è uguale. No, è più lunga. No, ti sto dicendo che è così, c'è scritto qua, 7.040 c'è scritto qua, nel catalogo. peso in confezione 5 kg e 600 grammi. Poi dobbiamo vedere in alluminio che rompono le balle, capito? Ah, assolutamente vero. Io ho visto che queste le macchine da quella di Codovizzano, era piazzata sempre dietro di tutti. Quando aveva cambiato casa, che lui si era sposato, l'aveva lasciata lì, e poi quando l'ha staccata in fiera lì. Figurati tu. Era una bella tettera, come antenna. Io se pianto qua, pianto mio figlio della Superlem, della figlia di Napoli. Mi pianto quella qua su. Dovrebbe essere buona e rendere parecchio anche. C'è la vitatura nello stilo, c'hai gli anelli ho visto che c'ha, quindi per la vizzata, fai altro per stringere e poi li metti da tesorante. Vabbè a tu. Buonasera, un Fulvio, la Marino e a te Gianni. E non so chi ci sia. Ben sentito, ben entrato, carissimo, occhi al terizoma, Ma sempre. Ma che la voglia, non la deve cambiare. E quella là che c'ho, mi faccio una multibanda, me la metto nuova per qua. Devo mettermi il palo da 12 metri, però, per salirla. Capito, se no... è inutile che la metto nuova e bassa, ma la metto come si deve, il palo deve essere come dico io. Caffè, fai bene. E quindi stai decidendo cosa metterci? Ah, ma tu fai uno, mi metto una Superlem. Superlem è quella sera. E adesso vediamo, con la Superlem, se secondo quanto me la fa pagare, se no... mi ordino 91 per la 5 fuori produzione. Ma fuori produzione? Guarda che non la stanno facendo. Così c'era scritto da Tecnocomunicazioni. Fuori produzione. Se sono un rimesso merce. Ma no, non è fuori produzione, forse non ce la fermano. C'era scritto proprio fuori produzione, c'era scritto. Evidentemente loro le hanno richieste ma non gliele hanno mandate da Mantova, capito? Evidentemente non le fanno più. Gli avevano detto così e loro hanno scritto fuori produzione per quello. Perché vuol dire che non le producono più quelle 5. Ma è meglio la 1, è più silenziosa, è più bella, cazzo. Secondo me, cazzo, qua è la migliore che hanno fatto. Dico una cosa che sono uguale, guarda, dico l'esattezza precisa, sono uguali di tutto, c'è un radiale più e peso un pochettino di più, boh, no, non ha altro di più, non ha, sia di una che dell'altra non c'ha nulla di più, te lo sto dicendo per certezza, l'unica che cambia era tutto, che ha un di più in più e otto radiali, e se già di più, pur basta. Cosa ci dica? A me la 1 mi ha dato ottime soddisfazioni quando ero via Pietro Mizza. E sono sicuro che adesso sopra un palo da 12 metri le senti della track con la 1. Con la 5 sono uguale, sono, te l'ho detto quello che ha di più. Non ha niente di più, non ha. Ha un radiale in più, peso un pochettino di più e basta. No, non c'ha altro, la ragazza di banda è la stessa, tutto tutto uguale. Non c'è già fatto un po' di fa. Ma neanche tanto. Io mi sono dicendo la cittadina perché c'è il catalogo Sigma. E quindi sono sicuro di cosa sto dicendo, capito? Ma io l'ho provata, ti sto dicendo che la luna è più silenziosa. Capita, a me mi interessa il silenzio. Ma molto di quello. Comunque te lo dico già, la Superlem cosa? 120 euro. Allora metto la mano per uno. Ma lo sto già dicendo, il mercato faccia qualche sconto, ma è così. Sì, vabbè. Ah, il PLA per non devo buscarmi, che mi faccio arrivare a Continente. Per fare una CDCM, per farlo, dai. Infatti non si è una gatta. Ma se non hai grosse pretese puoi chiedere ingegneria e macchinista come cavolo Dio comanda. Cioè, buoni, dai, secondo me è molto prezzo. No, mi metto quel di Apeno, aiutami a brinchierarci. Sì, mi si mette a bruciare da una l'antenna, non altro qua uno. Cavolo, ma... Così che è esagerato. Ti ha chiamato, no, non parlo. Allora ci vogliamo quelli là, dai. Se no già ho visto che ci sono quelli in argento, ti ragione li metto quelli in argento se non trovo gli altri. Non è lo stesso. Guarda, facciamo riprendere, dai. Va bene quelli in alto, non lo so. Chiamano bene. Provandoli. Lo faccio chiedere, chiedere non costa niente. Infatti, glielo chiedo a quella vice, ce li hanno, e se no mi devono dire dove reperirli. Ma cara, dottore Di Gianni o chiunque sia, non ne ho, a farlo, ma che c'è un uomo? Albu, buongiorno, Gianni della Bruido, Gianni! Ehi! Ehi, a cosa c'è? Ma tu sei, sì. Ma riprendi allora, dai. Ma mi sei cadeciato, io sento una mano. E riprendo. Devo fare anche il bagno, ma non la giocare. Aspetta che scendo di fronte la supposta. Ma non ce n'è bisogno, supposta, io non ne metto. Quella è finocchi, lo facciamo fare. Aspetta, non per permetterci la supposta che sei finocchio per forza. Perché poi gli succede al commento che ci ha preso gusto, ah? Ai, quando dici che la cosa non sai? Non ti piacciono le altre supposte, le vuoi, le polacinchi, quelle lunghe lunghe. Mi ti vai a riconoscere allora, tu sei ben di rompi. Ehi, le conosco perché quando ero piccolo, anche a me qualche volta me l'hanno messa, ma adesso non va bene più. Ma io te l'ho fatto passare la tosse, io non ti volevo fare un favore, ragazzi, tu non accetti, se no fatti la ad Antonio. No, fai tu. Grazie, sto dicendo, dopo vai come ti sabba la serata dei Riccani. C'è un bambino piccolo con il nipo, col nonno, dice nonno, vedi due cani che stanno accoppiando, nonno cosa stanno facendo quei cani? E nonno, vedi, il cane che è sotto sta aiutando l'altro perché praticamente è ferito, deve essere alle zampe. Tu dici, gira la mano, non rifà, no, aveva ragione papà a dire che la gente, che le persone, che se li aiuti, poi te la mettono dietro. Tutti smesso, oh, comunque ci sono nell'aria un po' di rumori, anche se noi dalla Budibuti abbiamo un socco allucinante. Ma non so, non è però con buccaria, gara. Presta a sé, ma deve essere roba di propagazione anche, e qua c'è propagazione su tutti questi rumori strani, addirittura a me mi scompare Radio 105 mentre una radio privata francese. Entrano di male, fa così. Ma però si intende pure un vito vischio. Quando è così si sta aprendo. No, io quel rumore è ma proprio penetrante. Ma io ho un mega disturbo sul 5. Ma finì, che dovevo andare in AM. Siamo già in AM. Ma in FM, per... Ma io mi ho detto che non è già in AM, non è che ciò che sta in chiave. Ma Giuseppe, c'è. Non fa, sembra che lo sia, non lo si paga a mente. No, dopo è tornato a faccia. Non è più entrato. Che sicuramente è cominciato lo spettacolo. E che spettacolo? Quel rumore strano. C'è un tizio la parte. Poi, quando c'è quel rumore strano, sull'11 alfa, non sul 14, a vedere se gli arriva quando scala lì. No, no, tutti i canali naturali. Lì. Sì, però in uno di quei canali deve arrivare quando scala. E dovrebbe essere un canale alfa, perché sono per telecomandi, sorveglianza, inviolati, sono i canali alfa, sono predisposti per quello. Adesso che ci penso. Ma niente di brutto, perché sono arrivato e forte, e c'è il canale 14. E adesso sento un rumore. Ok, io. No, no, io non c'entro niente. Quelli sono i canali, cioè, ribatte sui canali 14. Cosa dicevo? Vabbè, già lo misuro io là. Tu vuoi intendere la fare? Se tu ti metti sul canale 14, passi su un certo punto, ti arriva a fondo scala. Tranquillo, sono state già fatte le prove. Poi arrivi forte, cosa succede? Che arrivando forte, per segnare lì ti splattere anche il canale, non ti fa capire niente, neanche negli altri canali. No, lo so, ma io voglio sapere il picco massimo dove arriva. Già lo so io cosa sto facendo, non ti preoccupare. Picco massimo l'abbiamo già visto, dove possiamo uscire. Abbiamo la certezza che sia lì. Già te lo dico in verticale. Ok, no problema. Allora, Gianni, però ti sei preparato le mangiare a mondo? No, no, no, non ne ho voglia, sono un bel stanco. Oh, magari me la fa anche passare la stanchezza, ma non ho giocato. Mi sono lavato così, poi se ne ho voglia poi mi metto a moglie, ma per forza me lo devo fare perché domani c'è quella visita. Certo, certo. Sì, vabbè, non è che sei così. Ma vabbè, mi sono fatto poco fa la doccia, veloce, e vamos. No, è che se no domani mi tocca a disturbare tutti, mi tocca alzare un bel presto, perché alle 7:30 devo essere all'ospedale. No, perché ti devo caso a parte di sì. Sì, sì, per trovare il parcheggio, sì, sì. Ah, sì. Ma allora, se è mezza fatta la doccia, Tali, se domani finisco presto, andiamo a farci un giro noi. Per quella situazione del rumore. No, per l'antenna tua. Ah, beh, capito. Quello lo sentite male per i pali, perché mi devo verniciare, capito? Anche se sono dilungati di vernicio. Sono la provata rilascia al limite senza verniciare, dove entra l'antenna. Ehi, però volevo fare rosso e bianco, no? Perché anche 12 metri vuole verniciata per forza. Come i pali che sono la strada, eh? Beh, è meglio che sia visibile, capito? Sì, anche quella cotta lì non ci va nessuno, la salita lì. Cacchero che cacce. Ah, perché sta qua, ma se non vieni colteri. Cabra, cabra. Dici la lucetta, come si faceva prima, si metteva la lucetta a freddo, te lo ricordo. Ma il palo è vernice nero che sia visibile da lontano, perché passano massi i così, le micropoli, no? E loro vedono che c'è il palo. E da che parte lo metto? Per il momento lo metto dove c'è questo, no? Quindi quando la smonta non la metto nell'altra casa. Però se mi piace un po' di metri, un po'. Ma le staffe buone sono quelle che ho messo adesso. Che è mio via. Ma lì c'è le staffe miso. Sì, vabbè. Sempre quelle incementate sono sempre migliori. E quelle un po' come sicure. Che sono aperte in punta, aperte allargate, e tu come i cementi va contro un muro. E quelle che c'avevano io e Pietro lì che erano addirittura triangolari, che erano delle signore zanche, le avevo prese da usare, che erano delle lunghe. Ok, Io ce l'avevo così con la Gran Preta. Ce l'avevo anch'io così a casa di mamma. Me l'avevo messo il Torino a Cavazzacca. Io me l'avevo messo io, ma erano cazzo delle zanche paurose. E lui c'era un palo, era un pollice e un quarto, e poi ci aveva aggiunto una riduzione per mettere l'antenna. Era un palo brevendomi, e c'erano i tiranti, tutto, mi è piaciuto mica, cazzo, la linea centrale, gli aveva riuscito con l'antennina. Che fine anni va, fa? Boh, tutte buttate, cioè. No. Se poi il cavolo doveva scendere da lì, perché il palazzo è alto, tu abitavi al sottopiano. Beh, infatti, era più verde anche lì. Già me lo ricordo, l'ho venuto una volta a casa tua lì, una volta era entrata. Mi ricordo che c'era il computer già. Stavo guardando così, ma niente. Che strano. pellicola, c'è qualche cosa lì per la televisione. Non penso. La partita, c'è. La partita? Che partita Inter gioca oggi? Juve-Napoli. Avanti. Buonasera. Non ho capito chi è. Ce lo dirà, con chi abbiamo l'onore di parlare? Ma è un anonimo, dai, non lo vuole dire. Non lo so. E tu mi pare che va dove? Mentre la vasca rimedire. E mi faccio questo tuo benedetto bene che si è proprio non aggiungava. Ma vedi, se non mi trovo dentro la vasca. Non si trova dentro la vasca, che è pericoloso. No, ma con la colonna. Già, magari è rilassante, dai. Ma proprio se ci tutte le mole, eh? Fare bolle di sapo. Ci vuole pulenti in aria. Via. Sapo. Non so. La stazione c'è stata smontata. Sto facendo qualcosa, non so. Va bene. Io ancora non ho ideato il mobiletto, ma sono, devo fare il disegno, dai. KK. Ma cosa modificare quello per favore? Non lo vuole, lo vuole coperto davanti, però non lo vuole più. Vuole una cosa che si possa chiudere e non si veda più nulla. Sono complicate di dirvemene. Vabbè, già è pure meglio, dai, almeno più riservato. E vabbè, tu, ma tu cerca di capire a me, adesso c'ho il comune, lo smetto fatto e metterò sopra, no? Quando devo cambiare il baracchino, stacco una cosa e stacco l'altra. Pensa, se io, senza commutatore devo mettere tutti gli apparecchi, se ogni volta devo staccare il filo da dietro, cosa devo fare? Un casino. Ma non so, già lo so già. Ma non si può fare uguale a quello, più di più da vero. Quanto? Perché l'ultimo piano è libero, capito? L'ultimo piano è sopra, rimane sopra. E gli apparecchi ce li ho liberi. Nel senso che se devo staccare il piede, lo stacco, lo appoggio e metto l'altro, capito? E invece, nell'altra maniera, o ti metti un commutatore, e commutiti, e mi sa che è l'unica cosa che si può fare, oppure ti apri le luci. Lo farò aperto dietro per raffreddare. Deve funzionare qualcosa. Secondo me, se ci pensi bene, si può fare uguale, magari poi, con una cosa di figlio sarra e basta da fuori. Siccome questi qui sono, un mobile, vabbè, è un tavolo pieghevole, te lo dico com'è, no? È un tavolo pieghevole, che poi c'è una specie di serrandina, alti e ci sono sei sedie. Ecco, noi lo utilizzeremo solo in caso che magari c'è un ricevimento a casa o qualche cosa del genere, qualcosa di grosso, capito? Per unire i tavoli, se mangiavamo in tanti, ecco, tutte queste cose qua. E io avevo ideato una cosa, siccome che quando è piegato risulta come se fosse un mobile, no? Avevo ideato di farmi questo cassettone per metterlo sopra, adesso non va più bene perché cambiando la camera da letto è noce, capito? Quindi è un color noce e non ci sta bene, non ci sta bene, vuole dello stesso colore di tutto. Adesso può modificare anche. Comunque già si può fare, secondo me, a potuto arrepiare come lo vuoi tu. Poi chiudibile, figlia sale, e basta. Infatti, ho asportini, due vetrate belle. Tutto si può fare, basta idearlo, con tutte le comodità. La figlia sale e basta, tutto finisce lì. Si può ideare tranquillamente, secondo me. pagava. Bisogna pensarci un po' su, bisogna farlo. E ai? Allora, è andato al bagno. Ah? No, no, al bagno. È andato qua, aspetto da qua. Perché mi ha limite, posso mettere la mascara in piedi, se mi aspetta se ne... Sì, aggrappa, metti la mascara in piedi. Quello te la dimenticava. Eccoci qua. Sì, aggrappa, aggrappa. Vocetta di cosa ci ho messo? Mia moglie dice, ma che ci ha fatto il bagno? Che è una voce di lì? Il bagno si più. C'è un bagno si più, ma per la mamma. Con i bongui, mi faceva la schiuma. Sta fischiando, chi è? Avanti, questo signore sta fischiando, chi è? Aspetta un piacere un attimino. Aspettiamo. E a chi è questo signore? Hola, chi è questo signore? Anzi, chi fischia? Hola, attenzione, dici. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ah, ecco le vacanze. Dì che si apre fredda. Poi ancora a casa, no, c'è lo scaldabagno attaccato, sta a sera. Perché lasciamolo attaccato, perché se lo stacchiamo. Vai, vai, ragazzi. Ah, lo staccate. Perché lo staccate? Perché consuma di meno. Cosa stai dicendo? Sì. La gente dice che non è vero, però noi abbiamo appurato che staccando lo consumiamo molto, ma molto meno. Una volta che tu hai usato l'acqua per tutto il giorno, tu lo scaldi per tutta la notte, lo stacchi la mattina e a noi ci dà l'acqua calda tutto il giorno, senza bisogno di attaccarlo. Ma è quello che serve. Da una certa temperatura si attacca a lui. Cosa deve consumare? Se è sudato è sudato, non può consumare. Sì, ma se si consuma la qualcosa si riattacca sempre, capite? Quello che c'è. Siccome noi lo usiamo fino a un certo punto la mattina, la qualcosa dopo quando la usi. Quando ti lavi, ecco. Però quando tu lo attacchi fino a metà mattina, poi lo stacchi fino a tutto il giorno. Ma non è così come stai dicendo tu. Perché per scaldare poca acqua ci mette poco. Per scaldare tanta acqua per far arrivare a quella temperatura ci vuole un pezzo di scaldabagno. Ma sono diverse versioni. A noi ce l'ha detto uno che lavora all'Enel di fare così. Vuol dire che lo usano. Non è un manco. Noi abbiamo un amico che lavora all'Enel e ci ha detto guardate, l'unica cosa è staccarlo, poi riattaccarlo quando serve. Se no, se non vi serve lo credo di attaccare. Tante volte l'acqua calda dura e ha voglia, si dura. Ma che devi fare il bagno, va? Sì, è proprio contento questo, quando si consuma più energia, è l'unico che te lo dice, non è scemo, no? Scusami. Esatto, scusa, ma si è abbassato il volume di colpo. È l'unico che dice così, ognuno ti dà l'acqua al suo mulino, che tu sei scemo. Ma abbiamo visto dalle bollette, Antu, le bollette, se non lasci attaccato, anche tra le 40 euro non paga le bollette. Lo lasci staccato 120, 130. E siamo arrivati una volta a pagare 34 euro di bolletta. Ma se ti sale da una cosa, ma io non ne ho pagato di più. Come se fate a pagare anche 150? Ma che vuoi dire già? E allora? Io faccio pagare due, non mi sento. Non mi sento. Io vado a fare 300 ancora a pagare. Non c'è più di più, sono pagato. Come mai? Allora c'è qualcuno che si collega. O hai usato lineari grossi? I lineari grossi, ma lo so. Siccome l'ha cambiato da Enel a Enel, sì, boh, ha preso l'energia. Comunque il nuovo Enel, quello di 3 mesi. Cani, non va a caldo. Infatti abbiamo chiamato e va a 300 euro, perché c'è una cosa che non va. Allucinante va. Ma non va a caldo, non va a caldo, non va a caldo, non va a caldo. Questo qui è successo anche a mamma mia che ha fatto la stessa cosa che ha fatto tu, si è messa a edersi e cosa è successo? Ha pagato più di 1 milione e meno male ci aveva qualche cosa da fatto in banca, se non ce l'aveva messa col culo in terra. Ma sei mazzato questi qua, va, lascia qui lì, ma lo pago, ma dietro un camion perché non te lo pago più. Ma sta qua, ogni domenica ma ti arriva a 100, 120, 150, ma la paga niente, la pago. Ma lo cazzo siete dentro 300 minuti? Sono a 100 euro che sono pagato, quasi, non a 100 euro, a 100, a 300. Guarda, la pago all'altro mese, l'altro stipendio, un mese di... giugno, luglio, marzo, marzo, aprile, a maggio la pago. Tu sei stato un anno senza pagare bollette però. Chi hai io? Yeah. Quanto sei stato senza pagare? Allora, io non ho pagato, quando l'anno scorso mi sembra, 12 euro. Poi sono stati, se o no, 3-4 mesi non mandavo una bolletta, cosa del genere. Ma siccome la luce era ogni 3 mesi, siccome c'è anche il coso, il... come si chiama? La... ma... la lettura, come si chiama? Come l'hai chiamata? Quel cavolo di conguaglio. Conguaglio? Esatto. Conguaglio? Conguaglio? E... tutta la luce che poi alla fine no... non la devi pagare. Sì, a piano piano te la paghi, sai tu. Che parlando a Milano? Se l'ho fatta a rate. No, no, no. Uno su ballasso. Che dici che balla che? Capito. Dove che non c'è che balla? Vabbè, comunque. Cioè, ti dico che... non guarda che si è capitato in questo periodo. Chi si è capitato negli altri periodi qua? Arretrati. Cosa? Arretrati ci avevi. No, non è giusto. Ma come ti mai i saluti che si hanno? I capelli si in casa in tre. Ma no, non mi sembra possibile, o c'è qualche uno che si collega. Ma la qua poi allora ti è dimenticata. Ma come sono a fretta, eh? Dai, adesso vi saluto e vado a farmi il bagno. Ci sentiamo ragazzi, a domani, dai, ciao ciao. Ciao, buonanotte, ciao dai. Ciao, ci sentiamo. Ciao Luca. Ciao già. Comunque, adesso vediamo, ma spero c'è un errore, perché non può essere troppa luce, troppa. Capisco, vai, 500 euro, vaffanculo. Ma che bene, ma 1200 euro sono 2 milioni e 4, insomma, le vecchierie. Siete con solo ciolina, no? Controllatela bene, perché se c'è da scalare, devi fare scalare quei soldi. C'è qualcosa che non quadra, il contatore l'hai letto. Ma cosa ne so, sono furbi, perché ce l'ho fatto passare a quel coso lì per risparmiare, un cacchio, o se non me lo risparmio. Guarda, ma tu il contatore c'è di quelli nuovi, guardati la lettura a vedere se è così. C'è quello nuovo. Aspetta, alla box. Ma aspetta, qualcosa di strano, certo. sento. Sentire.